giornata più importante della protesta contro il G8. Spacciano tutto quello che provano, tutto quello che vetri, tutto quello che ti può sfondare, bruciare, tendono a farlo. Uno, due, tre, e gliel'hanno date, gliel'hanno date. Non andate in giro in gruppetti, non avvicinatevi alle forze di polizia quando le vedete. Mi hanno fatto un ginocchiare, pezzo di merda, se ti muovi ti ammazzo. Era polizia, ma ci hanno trattato in una maniera che credo nemmeno i Black Bloc li hanno trattato. Black Bloc che dir si voglia. Questa parte del corteo sembra assolutamente, definitivamente compromessa. Il corteo è spezzato. Presa dell'attività dei cosiddetti Black Bloc. Per quanto riguarda i Black Bloc, il fascio è tornato, tremato il forte. Questo ha un nome, stato di polizia.